Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Benvenuti a tutti, due parole su il reading tristo comico e sul mio lavoro. È un po' un lavoro comico missionario, nel senso che cerco di fare una comicità che faccia ridere, certo, senz'altro, ma anche riflettere, pensare e a volte anche arrabbiare. In questo modo, insomma, si fa un lavoro che è appunto di missione, quindi no, di come si chiamano quei centri di riabilitazione mentale, un po' così. E il blog di Madame Pipì nasce nel 2010 proprio attraverso, insomma, il mio piacere per la scrittura. Ho iniziato a scrivere un po' di cose facendo un po' un'analisi, un approfondimento su quelle che sono le piaghe sociali contemporanee, cose alle quali siamo abituatissimi, talmente tanto abituati che sono diventate delle consuetudini. Gigi D'Alessio, i talk show, certi talent show, del cibo orrendo, la nostra ossessione per lo shopping, queste sono piaghe sociali vere e proprie alle quali ci siamo abituati. Da oggi possiamo dire basta, grazie anche al reading tristo comico. E allora, visto che è settembre e che, insomma, la riproduzione nonostante tutto continua, ho portato un pezzo sui vostri bimbi che tornano a scuola e su una malattia che senz'altro avranno, che si chiama la sindrome della cartella di platino. Cosa hanno in comune gli orchi di Mordor a digiuno da giorni con i tuoi bambini pochi giorni prima che inizi la scuola? Molto, moltissimo. Quando si avvicina il primo suono della campanella, c'è solo un input per il bambino medio. E il tuo è proprio un bambino medio. L'input è: avrò la cartella con dentro le 7 meraviglie del mondo e se esiste l'ottava, porco il cazzo, questa sarà proprio la mia cartella. Li schiaccerò di invidia tutti quanti come vermi, bambini, già al momento del primo appello. Insieme al vortice di emozioni che precedono l'evento, insieme all'ansia, alla paura, all'impazienza e un filo di tristezza per essere rientrati dalle vacanze, il tuo bimbo ha la consapevolezza che si avvicina a un momento di ancora più centrale importanza per la sua vita: il momento dello shopping in cartoleria. Quando una mattina tu gli dirai in maniera sbrigativa di mettersi la giacca perché dovete andare a comprare i quaderni, lui si volterà, ti guarderà e tu avrai paura. Ti guarderà con gli occhietti iniettati di sangue di chi non dorme da giorni aspettando questa tua fatidica frase. Ti prenderà la mano con una stretta da morsa per asini e nei casi più agghiaccianti ti comunicherà che ha con sé la lista delle cose che la maestra ha espressamente chiesto di comprare. Genitore, ricordati, non c'è maestra che chieda ai genitori di comprare le gomme profumate di Hello Kitty di merda, né tantomeno l'abiro a tre fasci di luce di Iron Man. Se poi ti capiterà di avere la conferma della maestra ad un colloquio che effettivamente sì, aveva chiesto questo tipo di strumenti per la sua lezione, avvisa il preside che una docente della scuola potrebbe assumere metanfetamine durante le lezioni di tuo figlio. Ma in tutti gli altri casi non sentirti solo, ragazzo, hai uno dei tanti bambini afflitti dalla sindrome della cartella di platino. La tua creatura è capace di cambiare connotati già molte ore prima di salire in macchina per andare in cartolibreria. Una trasfigurazione che comporta gli angoli della bocca leggermente bagnati di bava canina, piccole vene blu negli occhi, occhiaie, aggressività, ira quando si viene contraddetti e crollo di nervi alla cassa qualora tu non ceda all'acquisto di un prodotto totalmente inutile ma a quanto pare vitale per il bimbo, come, che so, il temperino a forma di naso di Peppa Pig. La tua creatura si aggira tra i corridoi della cartoleria come un succiacapre, prendendo questo o quel quaderno, dicendo frasi come: ah, questo mi serviva, bro, proprio. Oppure, ah, eccolo finalmente. Se c'è qualcosa di inutile e costoso, il tuo cucciolo famelico sostiene che sia determinante per la sua carriera scolastica. Mica vorrai privarlo di questo diritto. Il raccoglitore ad anelli di quella stronza di Violetta sembra essere fondamentale quanto un pozzo in Africa per i suoi studi. Il righello di Imen, e non fate battute, sembra essere lo strumento grazie al quale il tuo cucciolo diventerà un vero capitano d'azienda, sì. Ci sono categorie di bimbi indemoniati dalla sindrome da cartella di platino. Devi solo riconoscere a quale categoria appartiene il tuo. Quello che fa lo gnorri. Fa finta di essere superiore agli acquisti. Un bambino che non deve chiedere mai, che l'unica cosa che vuole è fare felici la mamma e il papà. E passeggia tra i corridoi guardando la mercanzia con la faccia che esprime frasi come «Ah, come lo vorrei, ma non lo chiederò, per non dare un dispiacere alla mamma». Sì, sì, sì. Così tu ti sciogli come un ghiacciolo a Marrakesh e gli compreresti anche lo scaffale di compensato. Mio fratello era così, ignobili, pezzi di merda. La vincono sempre. Poi c'è quello col senso del dovere, quello del «Mamma, dobbiamo comprare questo astuccio dei Transformers perché mi serve per tecnica». Oppure «Papà, la maestra ha detto che quest'anno dobbiamo avere solo quaderni di Barbie». Poi c'è quello che mette le cose nel carrello a tradimento. Ecco, io ero così. Mentre tu, genitore, sei piegato a 90 a leggere il prezzo esorbitante della cartella Invicta, lui schiaffa dentro tonnellate di gomme, penne, matite e altri piccoli oggetti che possono rimanere incastrati nei prodotti più grandi e quindi eventualmente essere rubati. C'è quello poi del «Ma questo ce l'ha anche!» E aggiungi il nome del suo amichetto del cuore. È un affronto pesantissimo alla serenità psicologica del piccolo privarlo della possibilità di condividere con altri bimbi gli stessi giochi, gli stessi oggetti. Non lo sapevi? Ah, lo dice anche l'internet. Ma la cosa più spregevole di tutta questa storia è che mentre per le altre sindromi si fa di tutto per assistere e aiutare, ma non assecondare, nel caso della sindrome da cartella di platino, il cartolaio rappresenta davvero una figura criminale. Un ragno perfido che tesse per tutta l'estate una tela di adesivi, poster, diari e altri prodotti golosi esposti secondo le leggi di infimo marketing che facciano venire al tuo bimbo la stessa salivazione dei cani di Pavlov. Il tuo cartolaio di fiducia forse non lo sai, ma quando mette il cartello fuori chiuso per ferie ad agosto, in realtà lui rimane dentro il negozio con la pistola sparaprezzi e improvvisa una danza sciamanica che i bimbi di tutto il quartiere percepiscono sotto forma di onde sonore. E come il pifferaio magico, beh, anche il tuo cartolaio li ammalia, li prepara alla riscossa di settembre. Non c'è antidoto per questa sindrome da cartella di platino. Ma se c'è, non è di sicuro nascosto dentro l'astuccio dei gormiti di merda, come vorrà farti credere il tuo cartolaio, quindi sii forte. Bene, questo insomma è un episodio, sarà capitato a molti. Io stessa ero una bambina afflitta dalla sindrome da cartella di platino, non preoccupatevi, è un male comune. A proposito di male comune, adesso si parla di retribuzione, anzi di non retribuzione del lavoro in Italia. Mamma, sì, ciao, sì, ho fatto il colloquio. Sì, è andata alla grande, sì, mi hanno presa di sicuro, ma dovrebbero darmi conferma poi definitiva la prossima settimana, sì. Guarda, hanno detto cose incredibili sul mio curriculum, sì. Sì, sono al settimo cielo, sì. Hanno detto che sono una figura professionale di quelle che proprio aspettavano, che il mio background darà all'azienda un plus miracoloso. Hanno detto così, questi spunti innovativi, markup irripetibili, idee inimmaginabili, sguardi sul futuro, finestre sul successo. Sì, il direttore creativo mi ha detto tutte queste cose, sì, mi ha detto... Sì, mi ha detto che aspettava una risorsa come me da una vita e che se lo dice lui, che da 20 anni dirige questa una delle più grandi agenzie di comunicazione più importanti al mondo, beh, posso esserne fiera, ecco, sì, ha detto così, anzi, ha detto proud, ma... Proud in inglese vuol dire coraggioso, fiero. Eh? No, no, l'azienda è italiana. No, l'ho detto in inglese perché oggi le aziende fighe usano le parole in inglese per certe cose. Sono più efficaci, più accattivanti, più cool, dicono, sì. Sì, cool. No, non è una parolaccia, vuol dire figo. Vabbè, ma poi quando ci vediamo te lo spiego, eh? Eh? Ma va, no, a quale stipendio, no? No, per il primo anno non prendo nulla, ma è prassi. Sì, quando stai su un progetto nuovo, fidati, è così. Non puoi capire, mamma, dammi retta, seguimi. È una puntata zero, un progetto low budget, un'idea unconventional nella quale non sono stati fissati ancora dei budget, almeno per quest'anno. Ma quale rimborso spese? Ma dove vivi? Ma ti pare che gli chiedo io un rimborso? Cioè, se mi pigliano, sono dentro a un team internazionale che lavora su questo progetto fichissimo e io gli chiedo dei soldi? Beh, sono io, semmai, che dovrei pagare per lavorare con loro, ma tu non hai un'idea, ma che ne sai? Mamma, c'è la fila di gente che vorrebbe essere al mio posto, hai capito? C'è il mondo che pagherebbe per riuscire ad entrare in questa agenzia. No, fidati, guarda, se mi permetti, è senza offesa, ma ci capisco un pochino di più io sul mondo del lavoro oggi, non credi? E allora? Dai, senti, adesso ti saluto, se no mi innervosisco. Sì, saluta papà, dagli un bacio, eh? Ah, mamma, aspetta, ricordati di mandarmi i soldi dell'affitto, che è il 5, tra una settimana, mi raccomando. Sì, ciao. Ecco, questo era il pezzo triste, Federico, mi rendo conto. Per tornare un po' a sorridere, ti ho portato qualcosa di fottuta campagna, perché come funziona in tutti i migliori programmi, c'è il momento della pubblicità. Allora, niente, ho pubblicato questo libro con Fazzi a marzo 2016, è un libretto comico che è frutto di un'esperienza reale che ho fatto in campagna, cavalcando quest'ondata della moda del verde, che è un'altra bruttissima malattia. E mi sono trasferita in campagna da sola in un fienile, l'ho affittato a 2 lire in cima agli Appennini pavesi, dove ho pensato di condurre un anno di vita lontana, insomma, dalla società, all'interno di un contesto davvero rurale, davvero verde e davvero bio. È stata una tragedia, difatti il libro si chiama Fottuta Campagna e non Viva la campagna o qualcos'altro. E sono una quarantina di racconti umoristici e ve ne ho portati giusto un paio. E adesso leggiamo qualche cosa. Il primo capitolo, per darvi un po' il respiro del libro, si chiama I giorni del vaffanculo. Quanti luoghi comuni uso durante la mia giornata? Io, non per vantarmi, ma sono una bulimica di luoghi comuni. Io, complici la città, la grande educazione, io sono arrivata ai 30 trascinandomi dietro una gamma di borgheserie così imponente che prima di scrivere Fottuta Campagna avevo pensato a un processo al bon ton. Vi immaginate? Un dizionario con tutti i moralismi, con tutte le illusioni che affollano un modello base di cervello adulto oggi in Italia. Poi ho ragionato. Quello del ragionamento è sempre un movimento cerebrale che mi stupisce. E ho pensato che un vademecum di pregiudizi non avrebbe venduto molto, perché oggi va così di moda essere liberali, che leggere un libro che sostiene il contrario ci sembrerebbe quasi offensivo, amorale, quindi molto meglio scrivere cazzate, no? Sulla campagna, ad esempio, quante se ne dicono sul bio, sul verde, questi argomenti caldissimi oggi, sui quali tutti hanno qualcosa da dire, anche se pochi conoscono la materia fino in fondo, come avviene sempre con gli argomenti caldissimi. Io mi ci sono trasferita in campagna pensando che per avere autorevolezza su un argomento lo si debba approfondire. Pensate che assurdità. Così ho preso e sono andata a vivere in mezzo ai campi. Ma anche scrivendo di campagna, pagina dopo pagina, ecco che i pregiudizi continuano a perseguitarmi. Io sono imbevuta di razzismi su luoghi, persone, fiori, frutta, animali, e a poco guarisco, ammettendo la disarmante autorità che il pregiudizio ha avuto fino a questo momento nella mia vita, all'apparenza così fricchettona, così onda rossa. una missione dolorosa ma liberatoria, quella di essere piena di pregiudizi, una consapevolezza resa possibile grazie a un procedimento catartico che ho definito in gergo tecnico i giorni del vaffanculo. Candidi, inattesi, profetici, illuminanti, questi giorni arrivano per concederci l'opportunità di fare pulizia di persone, convinzioni che non rappresentano più nulla di positivo nella nostra esistenza. Un processo di illuminazione che ci libera da tutti i pesi morti attraverso una raffica di salvifici vaffanculo irradiati nella nostra atmosfera. Ecco, i miei giorni del vaffanculo hanno dovuto combattere una guerra impietosa, ma necessaria, dalla quale sono nate le pagine di Fottuta Campagna, come un diario di guerra, un debello bucolico. Fottuta Campagna è il racconto di come la mia vita sia stata messa in pericolo dall'illusione di conoscere a fondo il significato di una parola, campagna. E la morale è la seguente. Ricordati che è importante conoscere bene il significato delle parole, delle cose e delle persone che credi di desiderare, soprattutto se vuoi smettere all'istante di volerle. Ecco, fatemi bere un attimo. La descrizione perfetta per definire ciò che mi sono volontariamente inflitta potrebbe essere suicidio ecologico, ossia la scelta di chi arriva in campagna col cestino di vimini e pensa che le caprette gli facciano ciao, mentre invece le caprette sputano, puzzano e i maschi ti fanno anche la pipì addosso se gli capiti sotto tiro. Per non parlare del particolare gusto che provano nel ricoprirsi di sperma a vicenda, ma questo è un altro discorso. Chiedo scusa a mia madre se mi sta sentendo. A volte scegliamo la tipologia della nostra morte mentre siamo ancora in vita. Chi si trova la moglie o il marito rompicoglioni, chi fuma tutti i giorni dalle 7 del mattino, chi fa un lavoro che inghiotta tempo libero e weekend. Bene, io ho scelto semplicemente la campagna. In tutte le possibilità di suicidio si preferisce sempre dimostrare a se stessi e agli altri qualcosa, qualsiasi cosa, pur essendo assolutamente consapevoli di non esserne all'altezza. Ecco, la depressione urbana, questo è il motivo, questa è la malattia che mi ha spinto a trasferirmi in campagna, che è una patologia che oggi, come oggi, sta rapidamente prendendo piede. Si può riconoscere da sintomi ben precisi: ritrosia nei confronti di uffici pubblici e rispettivi funzionari, abominio per macchine SUV, apericene, discoteche, senso di nausea e capogiro nei grandi centri commerciali, conseguente drastica riduzione dei propri impegni sociali fino allo svolgimento di un minimo sindacale che si avvicina molto all'eremitaggio. Se hai la depressione urbana, vai al massimo dal benzinaio, in tabaccheria, al supermercato vestito come Lebowski. Se questi sintomi sono accompagnati da una voglia sfrenata, quasi erotica, di silenzio e solitudine, sei malato anche tu di depressione urbana. Ti sorprenderai a non rispondere più al citofono, a far crescere peli superflui e piante sul terrazzo in perfetta sincronia. Io ho scoperto di essere ammalata di depressione urbana quando ho riconosciuto questi semplici sintomi e altre curiose tendenze nella mia vita quotidiana. Mi inferocisco contro la società e la cultura del consumismo sfrenato. Risulto pesante al prossimo, specialmente a chi ama vivere ancora immerso nei servizi e proseguire il suo contributo all'inquinamento di massa. Sì, sei pesante quando sei malato di depressione urbana. Tu borbotti tutte queste nozioni che hai preso sui siti ecologici, ai seminari di permacultura, e diventi ciò che di peggio esista nella società contemporanea: un moralista. La gente ti evita, ti guarda male, consapevole che subito dopo il saluto e due convenevoli inizierai a dare ragguagli sullo smaltimento dell'olio, sul problema dei pneumatici e su come farsi il sapone da soli. Sei pesante. Sì, sono tutti pesanti quelli che si accorgono di vivere in un habitat che non corrisponde più alla loro natura e dunque si ammalano di depressione, urbana o di altro tipo. O magari di solitudine. Sì, perché in campagna, se non ci sai stare, tu vivi in attesa. Aspetti che passi una macchina con dentro un muso nuovo. Aspetti che qualcuno muoia, che qualcuno si sposi. Aspetti che piova o che esca il sole. Aspetti che passi l'inverno, che arrivi un po' di fresco, signora mia. Insomma, i tempi in campagna li scandisce il vecchietto che è in te. Se hai meno di 50 anni, la solitudine non vede l'ora di mangiarti vivo, specialmente durante il weekend. Anche se sei un tipo poco socievole, se il massimo del piacere lo raggiungi passando la domenica sul divano a leggerti un buon libro, ecco, la solitudine è furba e congiura sempre contro il tuo benessere psicologico. I tre maledetti giorni di venerdì, sabato e domenica pretendono molto da te, quindi alla fine, anche se non vuoi, ti ritrovi ad aspettare qualche amico che si degni, che so, di chiamare, di sacrificare 30 euro di carburante per venirti a trovare, per sostenere con te questa sfida contro il fine settimana e rinnovare la sua stima nei tuoi confronti, perché sei stato proprio bravo a scegliere di vivere qui. Credimi, lo farei anch'io, se non avessi il lavoro, la casa, la fidanzata, la mamma, l'ansia. Purtroppo però, anche se vivi in un posto straordinario, per i tuoi amici resti sempre quello che vive in culo ai lupi, quindi è dura ricevere ospiti, sebbene stremato dalla solitudine, tu in campagna arrivi perfino a desiderarne. Se però dovessi stilare un rapporto statistico sulle visite ricevute in questi mesi di campagna, un dato spiccherebbe tra tutti. Solo ed esclusivamente maschi, con un evidente gusto per l'esplorazione, la conquista e la fornicazione. I giovani uomini che scelgono di venirmi a trovare in campagna la prendono come un'impresa di colonizzazione, no? Da premiare all'arrivo, una espugnazione contemporanea che ricorda le spedizioni in terre lontane, quando gli indigeni venivano in spiaggia coi loro cestini a rendere omaggio ai bianchi. Ma tu, amico mio, per venirmi a svuotare la dispensa e la dignità, non hai attraversato un oceano col galeone. Hai fatto a malapena un piano di benzina al SUV e forse te sei pure lamentato, pagando il casello, di quanto costi al giorno d'oggi farsi una sifonata in campagna. Perché dovrei farmi trovare con la corona di fiori a farti la danza di benvenuto? Poi, ogni volta che azzardo un invito in campagna, io mi ritrovo a dover affrontare una spedizione di soccorso nei confronti di questi coraggiosi maschi, ai quali dopo ore di telefonate con tanti inutili, tu dove sei? Cosa vedi? Un cartello? Dico di aspettarmi al bar della piazza, dove potranno arrivare con più facilità, bersi un bicchiere d'acqua per riprendersi dall'estenuante ricerca infruttuosa di casa mia e aspettare che intervenga io col mio gippone per prelevare le loro inutili membra. Quando si perdono, mi piace godere del cambio di tono di voce da spaccone a capretto picchiato. Solo se raggiungono un punto da libro cuore io ho pietà di loro e gli dico di andarsene al bar, altrimenti mi piace aspettare e godermi questo piccolo crollo di nervi, perché anche quelli col SUV crollano. Quando arrivo in piazza li trovo tutti lì, disposti allo stesso modo, appoggiati alla staccionata, che bevono una birra in bottiglia fingendosi fonsi, cercando di ricomporsi dall'umiliazione di non avercela fatta, di non aver superato questa prova di virilità. Ora, oltre alla seccatura di doverli andare a recuperare, al bar si è creata una fastidiosa leggenda sulla mia condotta. Tutti i weekend c'è un maschio sempre diverso che mi aspetta, con la stessa prassi. Nei piccoli centri pensar male è un po' uno sport. Qui mi sono guadagnata una reputazione che non avevo mai avuto in città. Arrivo al bar e le signore mi guardano con gli occhi piccoli piccoli di chi non capisce se è un'altra o se sono sempre io con un ragazzaccio diverso. Ecco, gli abitanti del paese possiedono una versione dei fatti molto più interessante della realtà. Io sono innocente o sfigata, a seconda dei punti di vista, ma ecco, è inutile che mi metta lì a spiegare loro che si tratta dell'idraulico, del collega, di mio zio settantenne, perché la storia della mignotta con la garçonniere in cima alla collina piace. Così le mie domeniche passano lente a trainare i dispersi al fienile per trascorrere con loro una giornata sana, pudica. L'attrezzo più compromettente che faccio usare loro sono le cesoie, almeno mi potano un albicocco, ma niente, la verità non è piccante e alla gente serve sempre qualcosa di piccante. Alla fine comunque i miei presunti amanti se ne vanno via contenti come i ragazzi di San Patrignano alla loro prima escursione fuori dalla comunità. Sì. Prima che partano però io chiedo loro di compilare un semplice questionario, un test, con la scusa che sto scrivendo un libro sulla campagna. Sì, un questionario, sì, col quale io voglio approfondire il motivo che spinge tanti uomini a venirmi a trovare fin quassù nell'epoca di Tinder, di Meetic, di questi fast food amorosi metropolitani, perché proprio non capisco cosa diavolo li porti a fare questo sforzo inumano quando basta scaricare un'applicazione. Io agli uomini dico che il questionario è assolutamente anonimo, sì, e che possono infilarlo in una piccola urna di cartone che gli sottopongo proprio quando siamo ai saluti finali, sostenendo che all'interno poi della scatola e il loro test si confonderà con tanti altri. Invece no. Appena vedo la loro macchina allontanarsi giù per la strada bianca, io apro l'urna che all'interno ha solo il loro foglio e leggo tutto voracemente. Le domande proposte sono 3. Ve ne dico 2, se no non comprate il libro. La prima domanda. Sinceramente, se questa mattina avessi saputo che Arianna non aveva nessuna intenzione di dartela, saresti comunque venuto fin qui a trovarla? Il 75% delle persone risponde no. Il 25% delle persone risponde sì. Seconda domanda. Trovi che la sistemazione di Arianna ricordi simbolicamente la figura mitica della principessa prigioniera nel castello e che tu oggi sia stato un po' come i valorosi cavalieri della tavola rotonda? Praticamente la domanda numero 1 proposta per quel 25% di timidi. L'80% risponde sì. Sì, sono un cavaliere della tavola rotonda. C'è anche qualcuno che ha risposto non so. Devono morire quelli che rispondono non so ai test. Un altro pezzo dal blog di Madame Pipì e dopo torneremo nello spazio pubblicitario dedicato a Fottuta Campagna. È un pezzo nuovo che provo oggi per voi su un'altra piaga sociale alla quale siamo tutti più o meno abituati, che è il bugiardino, il foglietto illustrativo dei medicinali. Il banale, apparentemente, foglietto illustrativo dei medicinali. Ci siamo mai fermati a riflettere un attimo e a pensare a quanto possa essere pericoloso il bugiardino? Intanto, se si chiama così, mica è per rassicurarci, cazzo. Ma il motivo sul quale io rifletterei riguardo al bugiardino non è tanto il suo nome popolare così ridicolo e ostile, quanto il suo contenuto, che in modo del tutto esplicito ci piglia per il culo da secoli. Tu compri un medicinale per curarti e dentro trovi un piccolo pieghevole che ti catapulta in faccia una quantità di ansie che il medicinale ti appare non come una cura, ma come un metodo efficace con cui morire male, in poco tempo e oltretutto a pagamento. E in effetti forse lo è, ma questa è un'altra storia. Ma andiamo per voci. La composizione del farmaco è una di quelle voci del bugiardino che se non sai un cazzo di formule chimiche ti mette molta paura, perché è inquietante sapere che qualcuno che non conosciamo sia titolare assoluto dell'autorizzazione all'immissione in commercio di una roba farmacologica. Qualcuno che non abbiamo mai visto in faccia e che al contrario di noi conosce tutte le formule chimiche presenti su tutti i libri di chimica che noi però abbiamo venduto al mercato dei libri per pagarci la vacanza in Puglia con gli amici. Invece un secchione di merda che si è tenuto i libri e magari li ha anche rifasciati, sapete quei pazzi che rifasciano i libri, ha l'esclusiva su quella medicina lì e può decidere cosa farne in qualsiasi momento. Lo sapevate? Ecco, a me questa cosa mette un certo senso di insicurezza che non avrei manco su un autobus con 50 arabi con lo zainetto Invicta. Poi, se non bastassero i sintomi della tua patologia, il bugiardino ignobile ti propone un centinaio di controindicazioni che, se ti beccano, non lasceranno traccia né di te né del tuo albero genealogico. Raderanno al suolo la tua specie e lo faranno per colpa tua, ragazzo, che volevi curarti e invece hai ammazzato la tua stirpe. Sì, e se non ti sei cacato sotto con le controindicazioni, non preoccuparti, no? Ci pensano le precauzioni d'uso. Le precauzioni d'uso di un farmaco sono la lista dei 1000 motivi per cui tu non sei nelle condizioni di prendere il farmaco. Hai a casa un anziano? Meglio non prendere il farmaco. Dormito male? Lascia stare. Non indossi la cuffia da nuoto di gomma coi fiori e le farfalle? Non sei idoneo per il farmaco, mi dispiace. Come si chiama tua madre? No, no, per carità. Ma che non l'hai letta la lista nera dei nomi delle madri sulle precauzioni d'uso? Ecco, il foglietto illustrativo ti rammenta che sei spacciato se pigli il farmaco e poi ci bevi sopra una birretta chiara. Se dopo ci fai una bella guidata, se aspetti un bambino, che quindi a causa della tua incuria nascerà ciclope o come Paolo Limiti. Il bugiardino ti dice che se assumi il farmaco e poi fai un'attività sportiva ti verranno i brufoli nei polmoni. Il bugiardino ti dice che potresti avere grossi guai se prendi una goccia in più e sei celiaco, di Bari o hai studiato filosofia. Il bugiardino lo sa che hai qualcosa che non va e ti tiene d'occhio. Ti avverte che se non resti immobile, fermo dove sei con le braccia alzate, sei praticamente già pronto per i vermi, chiaro ragazzo? E le avvertenze speciali? Solo il nome mette un'ansia senza precedenti. Si tratta di un elegante puzzle con le ultime tendenze in fatto di possibilità di decesso che puoi subire in compagnia del tuo amico farmaco appena acquistato. Ecco, le avvertenze speciali sono le patologie straordinarie, pirotecniche, spettacolari, che puoi contrarre se sei uno dei 10 casi su 100 ai quali, con l'assunzione della pastiglia in questione, può crescere, che so, la coda di carne tra le scapole, può uscire la pipì dello stesso colore di un ragazzo appena uscito dallo space di Ibiza, può venire la stessa numerica di Nei di Bruno Vespa, che è senz'altro uno dei 10 casi di chissà che medicina, Bruno Vespa. Insomma, le avvertenze sono un po' gli effetti speciali della medicina. Sovradosaggio, effetti indesiderati, scadenza, che sarà senza dubbio già un po' cancellata dall'usura coi numerini falsati e quindi morirai. E infine, ma non per ultimo per importanza, le norme di conservazione. Praticamente le stesse di un libro del 1200 a.C., scritto dall'ultimo proprietario del Santo Graal. Il foglietto illustrativo di un qualsiasi medicinale, se ti fermi a pensarci un attimo, è un ottimo pretesto per farti desiderare di finirla lì. Di eliminare tutti i rischi elencati in modo perpetuo attraverso il decesso autoinflitto. E visto che ce l'hai lì e ormai li hai comprati, dico, perché non avvicinarsi alla morte con un bel cocktail di medicinali come fanno le rockstar? Ecco perché lo fanno. La rockstar, già di per sé paranoica, dopo aver letto il bugiardino dei medicinali con i quali vuole stordirsi e aver intuito che gli stessi effetti indesiderati colpiranno anche lei, confermando il fatto che fisicamente la rockstar è uguale a tutti gli altri comuni mortali del cazzo, sceglie di morire per mano chimica. Ecco perché. Come non averci pensato? È colpa del bugiardino se sono morte tutte quelle leggende a 27 anni. Alla rockstar, e anche a te che scegli di farti fuori, il bugiardino gentile ricorda però di tenere il farmaco fuori dalla portata dei bambini. Così ti piomba addosso anche il senso di colpa, che se schiatti, i farmaci che non sei riuscito a ingerire resteranno lì, sul tavolo dove i tuoi figli giocano coi gormiti. Allora ti sacrifichi, resti vivo, schiavo di un bugiardino di merda che ti sorride dallo scaffale col suo smile da farmaco senza obbligo di prescrizione. E tu senti che ora per davvero te ne serve una di prescrizione, l'Exotan, e giù con un altro bugiardino di merda in casa. Devo trovare il coraggio. Federico, io devo farmi forza, devo concentrare tutte le energie che mi restano e dire a tutti che io, quel film lì, quel film, quello che ha vinto l'Oscar, quello di cui parlano tutti, io non l'ho mai visto. Io devo raccogliere le forze e dire al mondo che non ho mai letto Shantaram. O L'eleganza del riccio. O quel libro che ha vinto un sacco di premi, Lo strega. Io non l'ho letto, va bene? La prossima volta che mi siedo a cena con gli amici, io giuro che anziché guardare la carta dei vini col pollice e l'indice sotto il mento, io lo dico che di vini biodinamici non capisco un cazzo. Non si può continuare così. Io mi vergogno. Mi vergogno tanto, ma non si può continuare così. Io devo dirlo. È una sfida che ho con me stessa io ormai. Io lo dirò a tutti che quel gruppo lì, che non mi ricordo come si chiama, quella band californiana che fa crossover elettronico d'avanguardia e che tutti andranno a sentire a Los Angeles a ottobre, io non l'ho mai sentita nominare. E con l'occasione, se mi girano, dirò anche che non ho sentito mai l'ultimo album di Radiohead, d'accordo? Io scoppio, io non ce la faccio più, io devo dirlo. Io ignoro chi abbia vinto X Factor quest'anno e Masterchef mi repelle. Avrò il perdono degli amici? Io non so come farò. Davvero, non so dove troverò il coraggio di dirlo domani in ufficio, ma devo liberarmi. A me piacciono le persone stimabili, a prescindere dai loro gusti sessuali. E non capisco perché certi gay debbano per forza parlare come le principesse Disney per dichiarare la loro omosessualità. Io non so se troverò il coraggio, ma potrò dirlo secondo voi? O divento automaticamente omofoba? Capiranno i miei colleghi che non si tratta di omofobia, ma di amore per la discrezione, per la riservatezza dei propri orientamenti. A me, il vecchio parroco del paese, porco Giuda, non mi pare uno che tocca i ragazzini. Potrò dirlo all'aperitivo di domani, o perderò un sacco di amici perché mi diranno Ciellina. Ma c'è qualcosa di più rischioso che devo trovare il coraggio di ammettere al pianeta. Qualcosa per cui tutti al vernissage di martedì mi schiferanno. Io di arte contemporanea non ci ho mai capito un cazzo di niente. E non riuscirò più a controllarmi, ma dirò a tutti che Marina Abramovic alle volte mi fa cadere le palle. Ecco. E a proposito di arte, io dovrò ammettere che sì, è capitato anche quello. È successo che durante uno spettacolo di Emma Dante io abbia avuto voglia di gridare che non ho capito. Che non ho capito. Che c'è troppa introspezione. Tutti quei conigli. Io non ho capito. Può succedere. È vero. Non c'è niente di male a non capire. È diritto del pubblico non capire. Oh no. Beh, visto che sono in vena, io devo confessarvi altre due o tre cose, altrimenti questo mi viene un brutto mal di stomaco qui. Io non ho mai fatto spinning in vita mia, ma sto benissimo. E poi non so cosa penserà la gente di me, però è giusto che tutti sappiano che il sushi non mi ha mai fatto impazzire. E la musica chill out, questa musica che mettono in certi posti a Ibiza, la gente coi pantaloni di lino bianco, a me mi ha sempre fatto orrore. Così come l'applauso che fanno al tramonto. Ecco, io devo trovare il coraggio, aprire il cuore e dire a tutti che l'applauso al tramonto mi fa cagare. Devo aprire il cuore e dire a chiunque che non ho mai visto una serie americana e che Netflix per me potrebbe essere tranquillamente un adesivo per dentiere e che il vodka tonic mi fa cagare, va bene? Voglio essere libera, libera di dire a tutti che una volta ho messo il like sulla pagina di Tiziano Ferro. Ma poi l'ho subito tolto, eh? L'ho subito tolto per paura di ritorsioni dei miei amici che ascoltano gli LCD Sound System, i Royscope, gli Strichnich. Mi sento già sola come un cane. Ma devo trovare il coraggio, devo trovare la forza di ammettere al mondo che anche se non faccio yoga e Pilates, io non mi sento malaccio. E a proposito di benessere, l'ultimo film di Tarantino, ammettiamolo, mi ha fatto stare un po' male con lo stomaco, nonostante la sua incredibile fotografia, sì. Io prenderò fiato e dirò che non mi è necessaria nessuna delle cose che devo apprezzare per forza, per la società. Nessuna di quelle cose che... Ma dove vivi? Ma dici sul serio? Ma davvero non lo conosci? Non l'hai mai visto? Cioè, non hai mai sentito parlarne? Vabbè, ma informati! Ma dove vivi? Ecco, Io devo trovare il coraggio, la forza di ammettere che non faccio parte della maggioranza che compone l'opposizione. Lo farò. E come se lo farò? Questa non è affatto un'anteprima. Lo devo ammettere. È su Fottuta Campagna, questo libro che è già un bestseller, ancora prima di uscire era un bestseller. Sì. Nel contesto, come tutti, nel contesto rurale, anche nel contesto rurale, tra le persone si creano delle relazioni, pensate un po' all'assurdità. Queste relazioni a volte sono frutto di, film che ci facciamo, pregiudizi. Soprattutto i vicini di casa, queste persone apparentemente molto distanti da noi, sui quali noi costruiamo davvero delle storie che costruiamo, smontiamo da soli. E questa è una storia vera sui miei poveri dirimpettai, che insomma sono sempre stati tanto gentili con noi. E con me, anzi, vabbè, con me, il mio cane, i miei gatti. E oggi la gentilezza fa molta paura. È un raccontino che si chiama Ladri di prugnette. Una delle cose che mi renderà spregevole ai vostri occhi riguarda il mio acquisto assiduo e forsennato di frutta, nonostante nel campo davanti casa mia abbia a disposizione un esercito di alberi da frutta schierati per me e pronti a produrre secondo i delicati cicli stagionali. Io ne avrei da regalare, meli, prugni, peri, ciliegi, cachi, kiwi. Eppure sono costretta a comprarla dai rivenditori, atterrita e umiliata da un mistero che ruota intorno alla mia piccola produzione spontanea. Una bella domenica, indosso la salopette e una camicetta di lino a fioni, metto gli stivaloni di gomma e il cappello di paglia, scelgo il cestino di vimini più bello della mia collezione e mi avvio nei campi canticchiando. Non vi dirò cosa, se no non comprate il libro. Quando arrivo nel bel mezzo del mio frutteto, scopro con orrore che Dio non solo si è dimenticato di questo posto dove vivo, ma anche della mia piccola produzione agricola, visto che non c'è traccia di frutta commestibile. Foglie strappate a terra testimoniano il passaggio di esseri umani malvagi, e dagli alberi pende solo frutta troppo marcia, troppo acerba o troppo in alto per essere colta. È evidente che siamo davanti a un oltraggio, di fronte a un chiaro attacco alla foresteria da parte dell'ignobile selvaggio popolo autoctono. È un invito al duello agricolo. Qui mi rubano la frutta. Da quel momento si apre la stagione della caccia al ladro. Ogni sera al crepuscolo apro una fessura tra tenda e imposte per scrutare le mie proprietà con sguardo famelico e attento. I ragazzi che rientrano dalle scuole mi vedono sbirciare torva dalla tenda e rabbrividiscono. Ma io me ne fotto, qui mi ciulano la frutta. Ecco, preparo delle piccole trappole, scruto tutti senza selezione, dai vicini di casa ai passanti. Ogni persona mi pare sospetta, ma resta solo una sospettata senza alibi. La moglie di Edoardo, la mia dirimpettaia, Loredana, una signora di una simpatia avvolgente, con l'aria della tipica bravissima cuoca e quindi potenzialmente perfetta ladra di frutta. In un attimo la visualizzo nella mia testa mentre approfitta dell'alba, momento in cui io non brillo per lucidità, per cogliere quintali di frutta, la mia, e trasportarla velocemente in casa grazie a un pratico fossato che separa la sua villetta dal campo del mio frutteto. Nel suo quartier generale, questa triste villetta, io focalizzo anche il marito, complice, mentre getta con rabbia le mie mele e le altre delizie in un grosso pentolone bollente per fare le marmellate da regalare alle loro nuore di Voghera. Ogni giorno mi convinco sempre più che sia lei a privarmi delle mie susine bacate e, come tutte le femmine da competizione, maturo nei suoi confronti un odio rabbioso. Una concorrenza sfrenata tra uteri, furiosa, primordiale, la stessa che da secoli ci spinge a lottare una contro l'altra per motivi futili come il look o il peso. Per una settimana improvviso dei turni di vigilanza notturna davanti alla finestra. A volte il sonno prende il sopravvento e quando mi sveglio mi ritrovo seduta con la faccia spiaccicata contro il vetro. Così la mia furia si centuplica. Non dormendo di notte, io sviluppo un'aggressività esagerata, nei confronti di piccoli guai o fastidi ordinari, come insomma tutti quando non dormono di notte. Ho delle reazioni sempre più improprie. Mi sorprendo a uccidere una zanzara col cassetto di un mobile. Picchio i miei gatti con la cazzuola. Sbavo di odio nei confronti di questa spudorata femmina che riesce a recitare meglio di me, che lo faccio di mestiere, la parte della dirimpettaia affabile e materna. Dopo 15 infernali notti insonni sono stremata. Quindi decido di farmi forza e di parlare alla stronza. Sì, le dirò che so che è lei, che l'ho capito da subito. Se serve, fingerò di averla vista di notte, anche se non ho avuto la forza di restare sempre di pattuglia. E lei, sentendosi braccata, si costituirà. Sì, sì, lo farà. A questo punto aggiungerò che per non beccarsi una bella denuncia, come si usa in Lombardia, visto che sono una brava persona e non mi piace fare le guerre di vicinato per simili sciocchezze, ci si potrà accordare per un po' di servizio civile, eh? Un po' di ore di lavori forzati, durante le quali lei e suo marito coglieranno per me la frutta almeno fino a settembre prossimo, impegnandosi a consegnarmi ogni mattina una cassetta di primizie, inclusi i cosiddetti trasformati, cioè crostate e marmellate. Glielo dirò. E come se glielo dirò? Esco di casa con gli occhi iniettati di sangue e il telefonino in mano con il numero di mio padre inserito come prima chiamata. Il mio povero vecchio abita a 700 chilometri da qui, ma il gesto di avere il suo numero come prima chiamata mi rassicura sempre. Sono le 9 di mattina e io ho dormito 6 ore in 15 giorni. Niente mi trasfigura più del poco sonno. Arrivo davanti a casa della coppia di pelandroni. Le serrande sono alzate. Ci sono piccoli attrezzi da giardinaggio appoggiati sotto un porticato e le ortensie svolazzano dolci seguendo il ritmo della brezza mattutina. C'è il tappetino con la scritta Home Sweet Home, tipico delle case degli psicopatici dei film americani. Sì, sì. C'è una piccola campanella alpina attaccata alla porta di legno e le girandole a forma di farfalla conficcate nella terra volteggiano guardando il sole. Vedo tutti i chiari sintomi di una coppia che ama crearsi l'alibi della famiglia perfetta. Sto per suonare il campanello quando lei mi precede. Sì, Loredana, si affaccia dalla finestra, allarga le labbra in un sorriso gigantesco che mi paralizza dal terrore e mi grida un fragoroso buongiorno, dicendo di aspettarla lì, che cercava proprio me e che sarebbe venuta lei a casa mia in mattinata. Sono sgomenta, quasi non respiro dalla paura, mentre lei scompare dalla finestra. La sento camminare dentro casa, me la immagino che corre in cucina, fa un cenno al marito che la guarda complice, apre il primo cassetto, le passa il coltellaccio che usa per squartare il pollo e lei con lo chignon perfetto si avventa contro l'uscio di casa, dove io morirò, dilaniata proprio accanto alla campanella alpina. Immagino la coppia che mi trascina all'interno, il marito che abusa del mio cadavere per poi seppellire i miei resti nel giardinetto sul retro, proprio sotto il ciliegio e con solo un paio di palate di terra, visto che sono dimagrita facendo le notti di guardia. Ecco, proprio mentre penso che andrò a infoltire la lista dei casi di cronaca nera della bassa Lombardia e indietreggio per correre verso casa mia, lei apre di scatto la porta e io lancio un urlo senza controllo, un urlo disperato, con tutto il diaframma aperto, un urlo che non dice parole precise ma che libera le mie paure in maniera maldestra, disordinata, come quando si aprono le gabbie dei palombi alle feste di paese, loro escono come se quella fosse la loro unica missione, senza una destinazione precisa. La signora Loredana mi guarda impietrita mentre regge con le mani una piccola cassetta di legno con all'interno 4 confetture di colore diverso, chiuse in deliziosi barattoli con il copricoperchio di stoffa, e mi chiede materna se va tutto bene. «È successo qualcosa, cara? Per carità di Dio!» Dice che tutte le mattine si sveglia all'alba per raccogliere la frutta, facendo piano piano per non svegliarmi, visto che gli alberi sono proprio sotto la tua finestra. E mi indica le confetture di prugne, quella di mele, di kiwi, e per ultima dice impazzirai per quella di cachi. E senti, Ariannina, già che ci sono, dimmi una cosa. Ma che ci fai all'alba sulla sedia davanti alla finestra? Io ti ho visto addormentata con la testa contro l'infisso. Mi sono preoccupata. Non è mica per via del libro. Non scrivere tutte le notti, da brava. Dormi un pochino a letto tranquillina, che ti trovo un po' sciupata, tesoro. Entri per il caffè? Bene, va bene, torniamo a Madame Pipì, un blog eccezionale. Nel frattempo, così in maniera del tutto informale, proseguo con la pubblicità dicendovi che insomma su YouTube ci sono anche un po' di video del live, così potrete anche godere del mio aspetto gentile, ecco, tanto in video con tutti i filtri che ci sono adesso, no? Bene. Ho altri due pezzi e poi vi lascio andare a casa. Che ne pensate? Ce la facciamo? Madi? Ciao, cara. Non ti avevo proprio visto, non ti avevo. Io tutto benissimo, grazie tesoro, grazie. L'hanno iniziato alla grande, tanti progetti nuovi, un sacco di lavoro, il telefono che squilla senza sosta, guarda. Non ho un minuto libero, ma non lamentiamoci. Adesso, cara, ho un progetto con questo art director famosissimo, io non ti posso dire il nome, è top secret, per fare una campagna moda a questo fashion brand, top secret anche quello, una cosa high budget, molto esclusiva. Come te lo spiego, Maddy? Vogliamo fare una joint venture di giovani artisti di street style e body art con food jogging, una cosa ricercata un po' troppo all'avanguardia per spiegartela così su due piedi, perché sai, comunque l'Italia non le capisce queste cose, anche se tu sei una che gira parecchio. Comunque io penso che farò avanti e indietro con New York, con 2000 riunioni, adesso vediamo, guarda, sono gasatissima, guarda. Le feste, guarda, ma di quest'anno le abbiamo passate tranquillini a casa, sì, con la famiglia. Sai com'è? A noi ci piace fare clan, Maddy, ci piace fare clan, sì. Sì, Giampi ordina un po' di questo catering biologico in questo mercato rionale online, chilometri meno 20, sì. Sì, poi ti mando il link. Praticamente ti portano i germogli saltati in 2000 modi. E poi Giampi si vede questi tutorial di cucina macrobiotica che si diverte come un pazzo, sì. Così abbiamo fatto un Natale un po' fusion, che ci piace far provare ai ragazzi le contaminazioni, gli influssi internazionali anche a tavola, sai? Tofu, noodles, bacche, sì. La Maya è cresciutissima. Guarda, non la riconosceresti, no. Adesso ha iniziato a fare yoga con la mamma, sì, lo facciamo insieme. Poi le faccio prendere lezioni di questa nuova danza sciamanica che arriva dalla Papua, la Gururoa, la conosci? La Gururoa? Come te lo spiego? Guarda, ti mando il link anche di questo. Diciamo una specie di ballo lisergico sullo stile di Ayahuasca che fa tirare fuori l'estro tribale ai bambini. Fanno lezione solo in 5 con questa maestra illuminata. Mi costa un po', ma ne vale la pena. Sì. Orash! Oh. Orash sta imparando a suonare le campane tibetane, ti ricordi? Sì, a Natale ne è ricevuta un'altra dai nonni, non se ne può più. Questa è 2,5 metri di diametro, sì. Praticamente quando la suona ci corre intorno. Sì. Mi sa che quest'anno lo mandiamo a fare pratica in Nepal. Sì, c'è una scuola super esclusiva dove fanno fare ai ragazzi anche un po' di jam session con alcuni strumenti antichi. Sì, resta fuori 3 mesi, che poi rientra, che gli ricomincia la steineriana, i corsi di hockey sulla sabbia, l'acrobatica circense ucraina e il flauto traverso per non vedenti tutti i giovedì, sì. Ah, sì, anche lui un'agenda più full di quella della mamma, sì, guarda. Sì, lo facciamo studiare con questo maestro che insegna ai ragazzi ciechi, perché ci hanno detto che in questo modo sviluppa una sensibilità diversa sullo strumento, sì, una roba emotiva che mi lavora sui chakra del ragazzino, sì, è un nuovo studio, ti mando il link anche di questo, sì, è uno studio di una psicologa ebrea che vive in Maine e lavora anche sulle foche monache. Certo, ti mando il link, sì. La Gururoa, ok. Poi a Pasqua lasciamo i ragazzi con la tata madrelingua inglese e io e Giampi ci facciamo qualche giorno in questa spa marocchina pazzesca, guarda. Sì, una toccata e fuga, però bah, almeno ci riprendiamo un attimo, guarda, siamo stravolti. Senti, cara, adesso io ti saluto, che come al solito sto con minuti contati. Ascolta, sì, guarda, devo vedere l'assistente di questo big boss della fotografia digitale. Senti una cosina, ti secca se ti giro il mio materiale tipo stasera? il mio showcase, il mio website, se senti che qualcuno sta cercando un copy, un outsider in agenzia, un soggetto multitasking, un brand developer, insomma sto cercando per rilassarmi, per tappare i buchi con qualcosina. Nel poco tempo libero io mi annoio a morte, sto cercando qualcosa di easy, anche un part time, sì, una consulenza one shot, una collaborazione ogni tanto con gli amici ci sta. No, sì. Un paio di fatture all'anno non farebbero male, se sono in più, sì. Sì, va bene anche al bar dell'agenzia, sì, dai. Un progetto un po' umile, sì, mi farà bene, un po' low profile, no? Ora che va tanto di moda il charity, sì. Sì, dai, anche fare le fotocopie, sì, che fa tanto cool questa cosa del coming back to the street, sì, to the print in realtà. Va bene, allora guarda, ti mando tutto, e ti chiamo quando invio, così mi dici se hai ricevuto. Grazie Maddi, fai silenzio, grazie, guarda, scusami. Chiuderei con fottuta campagna. Tra le tante bellissime avventure, è sarcastico ovviamente, avventure e anche bellissime che si possono fare in campagna, ci sono veramente gare di morra, sagre del salame, sagre dello stracotto, sagre di qualsiasi tipo di prosciutto, maiale morto, ucciso male. Io sono vegetariana e quindi mi sono iscritta a questa mailing list avvincente e appassionante che si chiama Amici degli Appennini. Tralasciando le varie attività molto interessanti, ce n'è una realmente interessante che è l'escursione notturna. Ci sono delle vecchie guide in pensione che, se mi stanno sentendo in questo momento, apprezzeranno vecchie guide che ti portano in cima alle montagne e ti ci lasciano di notte. No, si scende anche, però ecco, hai l'esperienza, la possibilità e l'occasione di vivere la montagna in silenzio e in notturna, quando gli animali danno il loro meglio e anche l'essere umano, come vedremo. E questo è proprio un pezzettino finale su una piccola controindicazione anche qui dell'escursione in montagna di notte. Una volta arrivati in vetta, ecco un altro attacco di sindrome di Stendhal verde, la conoscete? Insomma, io non so se esista una sindrome da vista di boschi e cime di montagne. Io guardo tutte le signore che sono venute con me in cima a questa montagna, in fila sulla linea del crinale, coi loro visi arancioni di crepuscolo, finalmente in silenzio, ad ammirare ciò che si spalanca davanti ai nostri occhi. Un panorama che forse somiglia a quello che vedranno i più buoni da morti, fatto di monti morbidi, boschi profondi e incavati tra le valli, piccoli borghi che iniziano a illuminarsi per la notte e nubi come fumi giganti che salgono verso di noi leggerissimi. Davanti a noi la spigolosa Liguria ci mostra audace un miraggio del luccichio del mare all'orizzonte. È bellissimo. E in questo momento penso che potrei essere davvero felice. Se finalmente allestissero il picnic. Se finalmente le signore stronze aprissero i loro zaini e io potessi tuffarmici dentro a candela e ricoprirmi di tutte le prelibatezze che avranno di sicuro preparato tutto il pomeriggio per nutrire il gruppo in questo momento mistico, come solo le mamme e le nonne sanno fare. Mi avvicino alla nostra guida in calzamaglia, a Frodo, lo ringrazio per averci portate fin quassù e gli chiedo raggiante che ne è del banchetto promesso. Lui si gira, cambiando posizionamento a tutto ciò che la guaina tecnica gli contiene ormai da ore, e con una voce fredda mi comunica che sull'allegato della mail degli amici degli Appennini era ben specificato che il pasto sarebbe stato al sacco e che ognuno doveva portarsi acqua e panini da sé. Resto immobile, pietrificata come il monte Ebro sopra il quale stiamo. Mentre Frodo finisce di sentenziare lapidario, mi giro e vedo le signore che mi guardano con i loro occhi cattivi. Gli occhiacci di chi si trova in una situazione di sopravvivenza come quella della montagna in notturna. Le vecchie arpie aprono i loro zaini e tirano fuori i panini proprio come farebbe Gollum col suo tesoro. Io e Mila, il mio cagnolino, non abbiamo neanche una bottiglia d'acqua e penso che moriremo qui e che le signore mangeranno anche i nostri cadaveri. Solo quando tutti avranno finito di mangiare ci arriveranno gli avanzi, proprio come vuole la legge della montagna quando si è alle prese coi viveri razionati. Pezzi di panini al formaggio masticati con ombre di rossetto fucsia. Fondi di acqua con dentro le briciole che a me e al mio cane sembrano regali di Dio, mentre siamo lì a rivivere le sensazioni dei veri escursionisti durante le spedizioni di inizio secolo scorso. Io e Mila veniamo naturalmente allontanate dal gruppo, schifate, indicate come gli avvoltoi dell'emergenza, e così ci appartiamo, per mangiare gli avanzi proprio sotto la famosa croce di ferro del Monte Ebro. Ogni vetta ha la sua croce, forse perché salendo si rievoca la Via Crucis, o forse perché una volta arrivato in cima vivo senti di dover ringraziare per avere ancora gambe e polmoni. Ma la croce è anche segno della presenza dei mitici alpini, e infatti proprio sotto quella dove io e Mila stiamo mangiando le vivande lemosinate scorgo una cassettina della posta legata col fil di ferro. Mi incuriosisco e Frodo da lontano mi grida che l'hanno messa proprio loro, gli alpini, così chi vuole può lasciare una testimonianza della propria scalata. Mentre le signore si stordiscono con le loro delizie maledette e crepassero, io scivolo davanti alla cassettina e la forzo leggermente per prendere qualche bigliettino e leggerlo con la mia solita curiosa avidità di donna. Così scopro che anche in questo contesto, a quasi 2000 metri, gli italiani riescono sempre a essere gli stessi miseri cazzoni. I bigliettini sono disseminati di frasi tipo «Viva la fica!» «Maschio focoso, anche con sto freddo, chiama al 342». Rimetto dentro i bigliettini e chiudo sbattendo lo sportellino mentre il cuore mi diventa piccolo, piccolo, piccolo. Perché immagino il pensionato alpino di 90 anni che passerà di qui per ritirare i bigliettini e si commuoverà vedendo che la cassettina è piena di testimonianze di giovani valorosi scalatori come fu lui un tempo. Poi la sera, nel rifugio al lume di candela, premendo la lente contro la carta umida, leggerà i bigliettini e... Viva la fica! Spettacoli, eventi culturali e segnalazioni della settimana. Con Sebastiano Spinella, direttore artistico del primo Festival Internazionale di Teatro Rom in Italia, Roma Heroes, a Roma all'Auditorium Spintime Labs dal 2 all'8 ottobre 2023. Ben trovato. Ciao, grazie per l'invito. Raccontiamo cos'è. Parte da un progetto nato da una compagnia di teatro ungherese con cui collaboriamo da alcuni anni e che sta lavorando alla creazione di una rete europea di collaborazione tra compagnie di teatro e artisti, sia nel campo creativo che nel campo formativo. Siamo attivisti per quanto riguarda la causa del popolo Rom in Europa. Com'era nata l'idea? Nasce dalla situazione in cui sta il popolo Rom in quasi tutti i paesi dell'Europa, specialmente nel blocco dell'Est e tristemente in Italia, che è forse una delle situazioni più degradanti, con i campi costruiti all'epoca di Alemanno e Berlusconi. Quanti sono gli spettacoli ospitati? Dall'estero verrà la compagnia ungherese, che presenta due spettacoli. Dalla Romania abbiamo una compagnia che presenta un concerto hip hop e uno spettacolo teatrale. Abbiamo ospiti poi off, alcuni artisti di origine rom ma che vivono in Italia, i fratelli Nikolic, che presentano ognuno di loro uno spettacolo diverso. Avremo la visita di Moni Ovadia in persona con la sua orchestra Taraf di Metropolitan, che aprirà ufficialmente il festival. Come è stata la scelta artistica? In parte è già prestabilita, in quanto il progetto è un progetto europeo cofinanziato dalla piattaforma Creative Europe e le tre compagnie Italia, Romania e Ungheria sono costituiti in consorzio come partner. Quindi queste compagnie principalmente sono l'attrazione principale nei festival. Poi ognuno di noi ha invitato degli artisti locali o internazionali secondo il proprio gusto. In realtà il festival è nato nel 2016 e fino a 2 anni fa si è fatto solo in Ungheria, a Budapest. L'anno scorso c'è stata una prima edizione a Bucarest. Quest'anno il festival viaggia nelle 3 capitali. Il primo festival è stato a Bucarest a metà settembre, il secondo è qui a Roma la prima settimana di ottobre, il terzo e conclusivo si terrà a Budapest la prima settimana di dicembre. Quindi è un festival nomade, un po' nella tradizione nomadica. Interessante anche l'abbinamento con lo spazio, lo Spin Time Labs. Questa è stata una scelta della nostra organizzazione Rampa Prenestina. Anche noi per circa 7 anni abbiamo occupato uno spazio appunto adiacente all'edificio che si chiama Rampa Prenestina, che abbiamo dovuto lasciare un paio di anni fa sull'onda degli sgomberi che da sempre ci inseguono a Roma, inseguono tutte le realtà nate dal basso e che prendono possesso di luoghi abbandonati per recuperarli e offrono servizi culturali e sociali alla cittadinanza. Abbiamo scelto Spin Time Lab per 2 motivi, uno appunto quello politico e 2 perché nei piani seminterrati lavora quello che loro chiamano il tavolo cultura, che ha creato una situazione di accoglienza per artisti, teatro e concerti con maestranze e professionalità che ci permettevano di poter creare un evento così importante. La maggior parte degli spettacoli si terranno nell'auditorium dello Spin Time, alcuni in altre sale adiacenti, c'è l'osteria che accoglierà la gente tra uno spettacolo e l'altro, c'è una biblioteca, ci sono le sale prove dove abbiamo lavorato tutta l'estate alla creazione della nostra compagnia, la Rampa Prenestina Teatro, l'abbiamo creata lì con l'ausilio di un regista che fa parte del gruppo del tavolo cultura dello Spin Time Lab. Tutti i riferimenti web per i dettagli del programma? www.rampaprenestina.it e poi pagina Facebook di Rampa Prenestina, anche Instagram e poi la pagina Facebook e Instagram dello Spin Time. Il primo festival internazionale di teatro rom in Italia, dal titolo Roma Heroes, all'Auditorium Spin Time Labs, dal 2 all'8 ottobre 2023. Un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Sebastiano Spinella. A presto! Grazie a te e grazie agli ascoltatori. Un saluto! Con l'autore e attore Roberto Latini per presentare lo spettacolo Pagliacci all'uscita da Leoncavallo a Pirandello a Roma, Teatro Vascello, dal 29 settembre all'8 ottobre 2023. Ben trovato. Grazie a voi, un piacere. Cos'è questo progetto? Beh, è un pensiero molto, mi sento di dire, nel contemporaneo rispetto al fatto che credo che ci sia un bel traffico di drammaturgie di questi tempi o di messe in scena o di testi affrontati trasversalmente, saccheggiati, riscritti. A un certo punto ho avuto desiderio di provare a immaginare invece qualcosa che non c'è, che non ci sarebbe senza un intervento invece altro come è questo, ossia prendere 2 testi, metterne uno accanto all'altro senza particolare intersezione, senza scambi, senza mischiamenti di nessun genere, ma proprio lasciarli uno accanto all'altro, estraendoli anche dalla loro natura, vedere che effetto possono fare messi così di seguito. Il primo è particolarmente un oggetto anomalo perché è il libretto dell'opera lirica di Pagliacci ed è trattato soltanto come testo, togliendo la musica intorno, togliendo tutta l'opera lirica intorno. Quindi dire un testo che invece è stato scritto per essere cantato accanto a un atto unico che invece appunto da atto unico non prevede né prima né dopo ed è all'uscita di Pirandello in una situazione, in una sensazione direi forse più esattamente metafisica come Pirandello a quel punto aveva immaginato. All'uscita debuttò il 29 settembre del 1922, noi debuttiamo il 29 settembre del 23

Poi l'8 ottobre, sempre alle 11.30, Folkpolitik, Canti di libertà del Mediterraneo, e sono le storie, la vita, le parole degli autori che hanno lottato contro le dittature in Europa e nel Medio Oriente. E riprende un disco che avevo fatto 10 anni fa con Banda Icona, questa volta la interpretiamo io con Barbara Eramo e il Baobab Ensemble, che è un coro multietnico con molte persone che da anni ci segue e con cui affronteremo questi racconti in musica, e la voce narrante questa volta sarà di Benedetta Marchetti, un'attrice giovane molto molto brava. Il 15 ottobre invece raccontiamo Villa Pamphili, passeggiando sulla storia, perché Villa Pamphili è anche un luogo dove si è scritta la storia, pensiamo appunto alla difesa della Repubblica Romana avvenuta all'intorno, ma anche le storie di Donna Olimpia, conosciuta anche come la Pimpaccia. Quindi l'attrice Vittoria Rossi racconterà queste storie che hanno caratterizzato Villa Pamphili, e le musiche saranno mie insieme ai fiati di Gabriele Cohen, grande ricercatore, grande musicista anche della tradizione ebraica e sefardita, e faremo delle musiche però legate alla tradizione romana, quindi una rilettura particolare in chiave quasi jazz di brani tradizionali di Roma, legandoli appunto a Villa Pamphili. L'ultimo appuntamento è il 22 ottobre con il titolo Ostinatamente Mediterraneo, che riprende l'ultimo disco fatto con Banda Icona, Mediterraneo Ostinato, e raccontiamo poeti e autori che hanno descritto il fascino, la bellezza e la sofferenza anche del Mediterraneo, del Mare Nostrum. E lo farò insieme a Gabriella Aiello, canteremo il Sabir, questa lingua dei morti, dei pirati e dei commercianti, la lingua che univa insieme italiano, francese, spagnolo e arabo, e racconteremo appunto queste storie legate al Mediterraneo con l'attrice Veronica Toscanelli. Quindi un programma molto ricco di musica e parole, en plein air, come direbbero i francesi, immersi nel fascino di Villa Pamphili. Tutti i riferimenti web per il programma? C'è la pagina proprio sul Facebook e anche su Instagram di Teatro Villa Pamphili o Scuderie Teatro Corsini. Le informazioni si possono trovare anche via telefono per prenotare 06 58 14 176, questo è il numero di telefono, si può mandare una mail a scuderieteatrali@gmail.com e sul web si trova www.teatrovillapamphili.it. Pamphili scritto Pamphili con la J finale. Ogni domenica alle 11.30 ci si vede al teatro e poi da lì ci si muove accanto nella villa per questi incontri all'aria aperta in Patto Zero. La rassegna Racconti Sonori, 4 domeniche a Roma al Teatro Villa Pamphili dal 1 al 22 ottobre 2023. Un saluto e un ringraziamento all'ideatore e musicista Stefano Saletti. A presto! Grazie, ciao! Con Flora Pitrolo, codirettrice artistica dell'ottava edizione di Teatro Bastardo a Palermo dal 5 al 24 ottobre 2023, ben trovata. Grazie, ben trovato, grazie mille Federico. Descriviamolo questo festival. Noi ci siamo sentiti l'anno scorso, quest'anno è la seconda volta che il teatro viene diretto da me e da Giulia Doro, che fa parte fin dall'inizio, fin dal 2015, del nucleo originario fondativo di Teatro Bastardo, però appunto siamo io e lei che abbiamo un po' preso le redini dall'anno scorso, e quindi insomma il festival l'anno scorso è già cominciato a cambiare e adesso insomma lo ritroviamo ancora una volta in una veste ancora rinnovata rispetto agli anni precedenti. Quest'anno è un festival che stiamo a livello curatoriale incentrando sul gesto, e quindi noi iniziamo con uno spettacolo di Oliver Zahn, un lavoro abbastanza conosciuto in Europa ma non in Italia, che si chiama Situazione con braccio teso. È uno studio analitico del gesto del saluto romano, del saluto olimpico in pittura, inventato in pittura e poi reso noto a teatro. E poi insomma lo spettacolo studia un po' come questo spettacolo e questo gesto è stato divorato dalla politica. E chiudiamo con uno spettacolo anch'esso abbastanza conosciuto, ma per la prima volta a Palermo, che tra l'altro presentiamo in collaborazione con un altro festival palermitano che ci segue immediatamente, che si chiama Prima Onda, che è Aerea, del duo Panzetti Picconi. che sono attivi tra Torino e Berlino, che è uno studio dello sbandieramento. Quindi questi sono i due gesti che inquadrano il festival il 5 e il 24 ottobre, e poi durante il festival questa idea del gesto, insomma, viene articolata in tanti modi. Abbiamo la performer inglese Tira Fox, che presenta un lavoro che si chiama Ten Socks a Jour nel primo weekend, ed è un lavoro che, insomma, parte da una ricerca sulla propria testa. È attivista politica, lei la chiama, inglese del XVII secolo, Anna Trapnell, parla, insomma, della sua poi eventuale accusa di stregoneria, però, insomma, parte dalle scritture della Trapnell per poi pensare a come la voce mistica ma politica della Trapnell possa essere applicata a quelle giustizie sociali nel contemporaneo, specie contro le donne. Il secondo weekend c'è un lavoro bellissimo di Ombre Collettivo, Casa Nostra, questo spettacolo muto di teatro di oggetti per un pubblico 12 più e adulti, che racconta gli anni 90-94, gli anni della trattativa Stato-mafia, e fa la racconta da questa surreale stanza dei giochi in cui non si parla ma si gioca. Quindi per noi anche portare questo spettacolo a Palermo è importantissimo, perché è uno spettacolo che ha già riscosso un grande successo, ma portarlo proprio qui ha una sua importanza, specie per il nostro giovane pubblico palermitano, proprio per quella fascia 12-17. Dopodiché c'è Danza di Guerra, anche quel secondo weekend, è uno spettacolo audio-video performativo di un musicista calabrese, Carlo Astrizzi, in arte La Santa. Ed è uno spettacolo che mette insieme un archivio folk calabrese, di musica folk, ma anche un archivio che viene, insomma, dai reportage alle investigazioni sull'Ndrangheta, quindi intercettazioni telefoniche, eccetera. Quindi mette insieme tutto questo archivio audio, tutto questo archivio video, e lo fa in qualche modo poi vivere in scena attraverso la performance. Quindi siamo anche piuttosto su quei temi. E invece poi alla fine chiudiamo proprio con delle questioni che hanno a che vedere con la resistenza, con le storie, con l'intimità, col fatto di stare insieme, raccontarci le cose, come le raccontiamo, come le facciamo. Abbiamo la splendida Beatrice Baruffini, che viene per la seconda volta al festival col suo W Prova di Resistenza, che è anche questo uno spettacolo sia per adolescenti che per adulti, e racconta la resistenza nel 1922 dei quartieri popolari dell'Oltretorrente e del mezzo a Parma. E poi un altro grandissimo spettacolo, piccolissimo ma grandissimo, perché solo per 14 spettatori alla volta, ma è questo stupendo lavoro che sta girando parecchio per adesso di Maria Luisa Usai, I'll Write You Something New. In questo caso I'll Write You Something New Palermo, ed è un lavoro che sviluppa proprio una corrispondenza epistolare con gli spettatori, e quindi, insomma, mette in scena questo fatto dello scrivere privato che diventa in qualche modo un'azione collettiva. Inoltre, ultima cosa, non mancano due appuntamenti proprio per i bambini 6, 7, 8 anni. Il territorio magico e il cristallo del tempo sono due iniziative che abbiamo messo a punto con una splendida realtà palermitana che è studi di libreria per bambini e ragazzi, e sono delle letture performative. E poi c'è un grande programma collateral, incontri, teste, installazioni, insomma, facendo dei piccoli focus sull'arte visiva prodotta da alcuni dei nostri ospiti, dei seminari pubblici. Insomma, quest'anno ci stiamo anche sbizzarrendo con il programma collateral, perché ci piace fare, insomma, veramente entrare insieme nelle questioni estetiche, sociali e politiche che ci poniamo noi quando costruiamo il testo. Tutti i riferimenti web per i dettagli del programma? Con enorme piacere. Allora, noi siamo teatrobastardo.org, Instagram come Teatro Bastardo e anche su Facebook. Ottava edizione di Teatro Bastardo a Palermo dal 5 al 24 ottobre 2023. Un saluto e un ringraziamento alla codirettrice artistica Flora Pitrolo. A presto! A presto, grazie mille a te, vi aspettiamo. Con Maurizio Lupinelli, curatore del progetto dello spettacolo Marat Sad, Le due rivoluzioni, a Milano, Teatro La Cucina, martedì 3 ottobre 2023, ben trovato. Buongiorno, grazie. Raccontiamo questo progetto. Questo progetto nasce da molto lontano. Questo progetto, dove vedo in scena una trentina di ragazzi diversamente abili con cui lavoro ormai da tantissimi anni in due progetti. Uno in Toscana, ad Armugna, dove c'è la sede del Festival in Equilibrio, uno dei festival più importanti d'Italia, dove dal 2006 sono compagnia residente appunto nel Val Teatro assieme a Elisa Paul, con cui condivido questo progetto e tutti i nostri lavori, dove appunto questa esperienza nasce in quel luogo. Poi da alcuni anni anche sto portando avanti lo stesso progetto, essendo con persone diversamente abili, per il comune di Ravenna. E quindi dopo questa esperienza lunga in Toscana, dove fra l'altro nel 2008 noi facemmo già un Marassad con i ragazzi toscani, poi un anno e mezzo fa abbiamo ripensato di rimettere in piedi questo lavoro facendo tutt'altra cosa, cioè nel senso un nuovo allestimento dove vede appunto in scena una trentina di ragazzi diversamente abili, anche dei ragazzi di Ravenna, e attori professionisti e giovani allievi attori della non scuola del Teatro delle Alpi. E questa esperienza appunto ha debuttato a giugno per Ravenna Festival, festival della città al Teatro Alighieri, e in qualche modo è il frutto di un lavoro che ormai portiamo avanti da anni, e pensando a un'opera come il Marassad, che è un'opera molto complessa, però la cosa che ci premeva più di tutti riprendere anche in mano questo lavoro era cercare di capire, di valorizzare ancora di più queste esperienze, quindi queste splendide persone all'interno di un lavoro anche un po' complicato, con tante chiavi di lettura. È chiaro che noi abbiamo cercato insieme ai ragazzi di lavorare su che cos'è per loro la verità, la libertà, quei concetti che in qualche modo nel bellissimo testo di Peter Weiss, che scrisse nel 1963, dove appunto mise al centro di questa storia il Marchese de Sade quando venne rinchiuso ai tempi della Rivoluzione francese dentro nel manicomio di Charenton. E quindi siamo partiti col fatto che il direttore sapeva benissimo che era un matto questo Marchese, dice: visto che ha un fine letterato, detta in maniera anche molto banale, ma perché non mi fa un po' di animazione con questo dei genti? Lui non se lo fa dire due volte e mette in scena appunto tutta la diatriba fra Marat e la Rivoluzione francese. Chiaramente noi ci siamo soffermati dal punto di vista dei ragazzi e quindi ci siamo molto divertiti e speriamo di continuare a divertirci, dove il potere viene continuamente rovesciato, non si capisce chi ha in mano il potere. Beh, non è molto distante dall'oggi, credo. La cosa interessante di questo lavoro è che comunque il frutto di questi anni che nel Val Teatro io e Elisa portiamo avanti con queste persone, in questi progetti sia a Ravenna che a Armugna, Castiglioncello, dove questi ragazzi hanno avuto la fortuna in questi anni, noi li chiamiamo attraversamenti, la possibilità di lavorare anche con altri artisti, nel senso che sono ragazzi che negli ultimi anni hanno incontrato gli attori della Raffaello Sanzio, gli attori del Teatro delle Alde, attori come Latini, danzatori come la Gribaudi, la Crista Rizzo, Raffaella Giordano. Quindi anche il fatto di, l'obiettivo nostro primario è fare in modo che queste persone possano nell'arte trovare il loro senso di fare. Non è il classico laboratorio. È chiaro che per quanto riguarda noi a Ravenna, ma anche a Castiglioncello, e quando c'è un'attenzione di strutture molto importanti su questo progetto che ti danno la possibilità di lavorare in una determinata maniera, ecco che è possibile fare dei percorsi di questo tipo. Non è un caso che anche questo lavoro che faremo a Milano, ieri eravamo a Bergamo, è il frutto di tutti questi anni che stiamo assieme, nel senso di poter mettere anche in condizione i ragazzi di fare questa esperienza. L'obiettivo è anche di inclusione sociale e lavorativa, quindi anche la possibilità a loro che abbiano la consapevolezza di fare tutto ciò. E non è un caso, soprattutto anche nel Marat, dove lavorano con degli attori professionisti, insomma, nello spettacolo il direttore è Marco Cavalcoli, il premio Hugo come miglior attore italiano quest'anno, quindi la Laura Serena, la Miriam Russo, Carla Garavini, io e mia moglie che adesso è incinta, per cui segue a livello organizzativo tutta la macchina. E quindi insomma è questo il punto d'arrivo, era proprio dove la libertà in scena di queste persone fosse evidente. Quante persone coinvolge il progetto? Una cinquantina, perché siamo 30-40 attori, tra gli allievi attori diversamente abili, poi tutto quello che c'è dietro, abbiamo tre costumisti, tecnici, forza, è una macchina. E devo dire grazie a questa esperienza, il fatto che una situazione come Olinda, il Paolo Pini, il Teatro La Cucina, anche se che Olinda e il Teatro La Cucina conosce da sempre l'esperienza che sto portando avanti in questi anni, non è un caso che l'abbiamo inaugurato noi il Teatro La Cucina nel 2008. Era uno studio sul Marà allora, con i ragazzi di Castiglioncello, dove facemmo il Marà, e per le tre serate si inaugurò appunto il Teatro La Cucina. I riferimenti web per quanto riguarda le informazioni? Tutta questa esperienza qui è documentabile sul nostro sito Nerval Teatro, www.nervalteatro.it, lì c'è tutta l'esperienza che dal 2006 portiamo avanti, dove sono coinvolti studiosi, sono coinvolti gli artisti, gli operatori, i ragazzi, tant'è vero che alla fine dello spettacolo, e questa è una cosa bella, ci sarà il professor Fiaschini, che conosce bene l'esperienza perché l'ha seguita anni fa, c'è Marco Menini, che è uno studioso e anche un critico di teatro, poi ci sarà anche Paganelli, l'allora direttore di Armonia, e poi ci sarà anche Diego Vincenti, che introduce, quindi alla fine dello spettacolo ci sarà anche questo incontro dove racconteremo un po' tutta questa esperienza che insomma ormai arriva da tanto lontano, ecco. Lo spettacolo Marat Sad, le due rivoluzioni a Milano, Teatro La Cucina, martedì 3 ottobre 2023. Un saluto e un ringraziamento all'autore e curatore del progetto, Maurizio Lupinelli. A presto! A presto, arrivederci! Giacomo Spanu, uno dei curatori del numero 61 di Zapruder, rivista di storia della conflittualità sociale, dal titolo Se bruciasse la città, confini, segregazioni, conflitti. Ben trovato. Buongiorno, buongiorno a tutti e tutte. Raccontiamo partendo dall'identità, cos'è Zapruder? Sì, Zapruder è il quadrimestrale dell'associazione Storia in Movimento, è fondamentalmente è uno degli strumenti che questa associazione si dota per provare a sviluppare ambiti di confronto e approfondimento culturali su storiografie e storie dei conflitti sociali, cercando di andare il più possibile in geografie e storie differenti. Come è stato concepito questo numero? L'idea del numero nasce dalla volontà di provare a parlare di come i confini materiali della città un po' creano forme di segregazione più o meno palesi. È dalla volontà di provare a descrivere le città contemporanee sia con uno sguardo diacronico, sia con uno sguardo che riesca a tenere insieme una prospettiva del potere e una prospettiva della vita quotidiana. In particolare l'idea era quella di studiare le differenti forme di segregazioni per provare a analizzare lo spazio urbano, ma anche le forme di soggettivizzazione all'interno di questo spazio, intorno ai confini, e quali sono le forme di attivazione e di conflittualità che si esprimono all'interno delle nostre città. Quindi possiamo dire che un po' l'idea del confine viene utilizzata per leggere sia le forme di segregazione, come ho detto, sia le forme di trasformazione dello spazio urbano, che appunto le forme di opposizione e di negoziazione dei confini stessi. Quanti sono stati i contributi e di che tipo? Su cosa si focalizzano? Abbiamo raccolto una quindicina di contributi che, come nella struttura tipica di Zapruder, si sviluppano in modalità differenti, quindi abbiamo le rubriche Zoom, che sono degli approfondimenti molto curati che permettono di sviluppare in profondità alcune tematiche. In particolare in questo caso parliamo della segregazione delle periferie, della marginalità delle periferie, con un approfondimento a parte di Giovanni e Cristina sulle periferie bolognesi e sul quartiere Pilastro, un approfondimento sulle lotte contro il manicomio negli anni Ottanta sviluppato da Manuela Patti, un approfondimento sugli spazi di extraterritorialità in Cina sviluppato da Francesca Congiu e un approfondimento sulla stagione culturale delle estati romane scritto da Marco Gualtieri. Successivamente abbiamo la rubrica Immagini, con cui proviamo attraverso foto di differenti spazi urbani a parlare di segregazione su varie scale e in vari ambiti geografici. Poi le schegge, che sono degli approfondimenti mirati su precise questioni, abbiamo sviluppato un approfondimento scritto da Andrea Caroselli e Pasquale Schiano su come la musica durante gli anni 70 e 80 delle controculture britanniche ha permesso di parlare delle repressioni e delle rivolte nelle metropoli inglesi. Ma parliamo anche, attraverso l'articolo di Silvia Ru e Lorenzo Mauloni, degli spazi marginali tra Roma e Ventimiglia in relazione ai processi migratori. Poi abbiamo due approfondimenti su due luoghi particolari della rubrica appunto luoghi, uno curato da Nina Bacchini che parla dei regimi differenziali di mobilità a Ventimiglia e uno invece tornato da Luca Manunza che parla della presenza militare a Cagliari, in Sardegna, in particolare nel quartiere di San Bartolomeo. Infine abbiamo un articolo curato da Andrea Tappi e Oreste Tappi che parla delle tracce urbane dei volontari fascisti nella guerra civile spagnola e come appunto all'interno delle nostre città, ed in particolare un approfondimento anche a Ciaiasco, che questa cosa emerge. E abbiamo due interviste fatte a Mattia Rigust e Noemi Berghesio che affrontano le questioni delle segregazioni all'interno della città, però da due punti di vista diversi. Uno, le forme, le pratiche di sopravvivenza negli interstizi urbani, sviluppato da Mattia Rigust, e l'intervista è pure di Andrea Brasso Duro. Mentre il secondo, di Noemi Berghesio, che è un'intervista a cura di Fabio Bertoni, si occupa più delle manifestazioni vernacolari nella città di Trieste in relazione proprio al confine e all'attraversamento del confine da parte dei migranti. Infine abbiamo un comics, L'Evasa, che appunto ci racconta la periferia romana attraverso le storie di iene che vivono ai bordi della città. E per finire abbiamo la rubrica Sei domande sulla storia, a cura di Lenia Rossini, che intervista Vittorio Vidotto, su come gli sguardi della storia urbana e della complessità sociale ci possono permettere di raccontare le città. Tutti i riferimenti web per saperne di più? Nel sito storymovimento.org, all'interno della quale è presente la rubrica dedicata a Zapruder, e in particolare c'è la possibilità di leggere l'indice e avere la possibilità di comprare Zapruder. Il numero 61 della rivista Zapruder, rivista di storia della conflittualità sociale, dal titolo Se bruciasse la città, confini, segregazioni, conflitti. Un saluto e un ringraziamento ad uno dei curatori, Giacomo Spano. A presto! Grazie mille, un saluto a tutti e tutte. Con la scienziata Raffaella Bullo per presentare il suo progetto Plastic Crime Scene Investigation all'interno della quinta edizione del Tevere Day a Roma dal 6 all'8 ottobre 2023, anche se ci sono date prima e dopo. Ben trovata. Buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a tutti voi. Raccontiamo un po' di questi eventi. Per la prima volta il progetto riforma dove nasce l'idea, quindi centro di Roma, nel suo cuore, quindi intorno al Tevere, sempre acqua, il Tevere che è dall'acqua dolce che poi diventa mare, che è quello di cui mi sono occupata negli ultimi anni. Finalmente il progetto è alla portata di tutti, non solo per chi frequenta il mare, ma per chi frequenta Roma e il suo Tevere. Finalmente a Castel Sant'Angelo, Rione Ponte, sotto al ponte, come mi diverto tantissimo dire, vengono a campionare le microplastiche nel nostro fiume. Questo è all'interno di questo grandissimo evento di Roma Capitale, che è Tevere Day, che si concentra appunto sul benessere, sulla bellezza del Tevere, che spesso volentieri ce ne scordiamo. Quindi per la prima volta torniamo qua. Qual è il calendario che ti vede coinvolta? Cominciamo con il 2 ottobre, dopo la conferenza stampa di presentazione del progetto che c'è la mattina al Campidoglio, all'aula Giulio Cesare. Avremo le danze il pomeriggio alla Libreria del Mare, storica libreria che si occupa di mare e del Tevere, dove presento il progetto alle ore 5. Poi venerdì, sabato e domenica, la Citizen Science del progetto diventa operativa, quindi chiunque vuole venire a campionare, farsi scienziato, cittadino, durante il fine settimana, appunto sotto Castel Sant'Angelo, nella zona dell'imbarcadero, quindi al lato sinistro del Tevere, all'altezza d'Ordinola. Poi il 12 ottobre, nel pomeriggio, alle 4:30, all'interno del Tevere Eterno, che è appunto un altro contenitore che si occupa di Tevere all'interno del Tevere Day. Alle 4:30 presentiamo l'accordo con la Fondazione Pistoletto, presenteremo le idee che vogliamo assolutamente sviluppare intorno al famoso gioco delle plastichine, con il quale facciamo analisi quali quantitativa delle plastiche che troviamo sulle spiagge. Dopo appunto l'analisi scientifica, invece di riportarle in discarica, abbiamo deciso di farci arte, quindi in quell'occasione presentiamo lo sviluppo di questo nuovo accordo. Spieghiamo anche come avviene la raccolta delle microplastiche tecnicamente. La raccolta di microplastiche inizia alle 10 di mattina durante venerdì, sabato e domenica, quindi il 6, il 7 e l'8. Ci ritroviamo appunto all'altezza dell'imbarcadero della riva sinistra. Con i vigili del fuoco ci supportano nel progetto proprio per le strutture, quindi con i gommoni. Prendiamo il gommone, prendiamo Chitara, che è il prototipo che ho sviluppato in questi anni per le microplastiche per la Civil Science. Andiamo a metà del fiume sotto il Ponte degli Angeli e lì cominciamo appunto a prendere tutti i dati e fare i 10 minuti di protocollo di raccolta delle microplastiche con questa retina attaccata a chitarra di 335 micron che definisce appunto le microplastiche. Terminato i 10 minuti, raccogliamo e tiriamo su chitarra, andiamo sulla banchina e puliamo la retina, prepariamo tutto il campione per essere portato in laboratorio nei giorni successivi al festival. Le misurazioni che hai compiuto finora che cosa ci dicono? Le raccolte che ho fatto fino adesso sono alla cuce, quindi proprio alla fine del percorso, lì dove il fiume si sposa con il mare, ci dicono che abbiamo molte fibre, molto probabilmente originate dai lavaggi delle lavatrici, abbiamo piccoli frammenti di plastiche, di natura piuttosto incerta perché ovviamente quando sono piccole frammentate non sappiamo da dove possono arrivare e che insomma c'è molto da lavorare, molto. Tutti i riferimenti web per saperne di più? Il programma del festival si trova al tevereday.org, dove si trova anche gli eventi di Parliamo di Tevere, dove ci sono tutte le presentazioni dei libri intorno al mare, intorno al Tevere, e poi sempre sul mio canale social Plastic Crime Investigation o sul mio canale Instagram Raffaella Bullo. Il progetto Plastic Crime Scene Investigation all'interno della quinta edizione del Tevere Day dal 6 all'8 ottobre 2023 con date sia di anticipazione che post. Un saluto e un ringraziamento alla scienziata Raffaella Bullo. A presto! Grazie! Con Dario del collettivo di fabbrica GKN per presentare l'azionariato popolare e la campagna 100 per 10.000. Ben trovato. Ciao a tutte e tutti. Partiamo dalla vicenda GKN. Per chi non la conoscesse, per sommi capi, descriviamola. Noi siamo un'azienda dell'automotive, producevamo semiassi a Firenze. Siamo saliti agli onori della cronaca perché il 9 luglio 2021 dissero di stare a casa per un giorno di ferie collettiva e in verità ci mandarono una mail dicendo che eravamo tutti licenziati. Da lì partirono mesi di lotta dura, anche con cortei importanti, perché sin dall'inizio chiarimmo che il problema non erano quei 420 posti di lavoro, ma un intero sistema che li aveva attaccati, che come attaccava noi, attaccava chi è precario, chi ha perso il lavoro prima di noi in altre forme, tant'è che il motto della nostra lotta è insorgiamo e non semplicemente la GKN non si tocca. Quella fase fu vittoriosa, riuscimmo a sconfiggere i licenziamenti, arrivammo a proporre un piano industriale alternativo con una proposta di polo pubblico della mobilità sostenibile e da lì hanno elaborato evidentemente un'altra tattica per licenziarci. Ci hanno lasciato in un limbo in cui non siamo licenziati ma non c'è lavoro, semplicemente svaniamo nel nulla perché evidentemente dopo un po' piano piano i colleghi se ne vanno, si rifanno una vita e hanno fatto questo dicendoci che arrivava il Cavaliere Bianco che è sempre dietro la collina ma non arriva mai, è arrivato un proprietario che ha ritirato licenziamenti ma lui non è né un investitore né un industriale del settore ma ci diceva che avrebbe portato altri investitori che non si sono mai visti. A quel punto noi abbiamo scardinato questa tattica contro di noi creando una società operaia di mutuo soccorso, arrivando a creare anche una cooperativa

Ovviamente vi invitiamo a seguire le pagine social del collettivo di fabbrica su Facebook e su Instagram, soprattutto dateci una mano su Facebook, visto che non saremo soltanto noi ad aver notato che ormai l'algoritmo di Facebook oscura qualsiasi iniziativa di natura sociale, ma su insorgiamo.org, che è un sito che abbiamo messo in piedi da poco, trovate come contattarci, proporci eventi e iniziative, trovate i riferimenti per la campagna di azionariato popolare che si chiama 100 per 10.000, cioè noi ci auguriamo idealmente di avere 100 finanziatori da 10.000 euro, ma in realtà è una cifra indicativa, nel senso che l'obiettivo era di avere più diffusione possibile, e trovate tutto lì, le domande, il regolamento, eccetera. La cosa che vorrei specificare è che oggi le domande di ammissione a soci finanziatori che vogliamo di fare sono soprattutto simboliche, non nel senso che poi ci daremo anche i soldi, ma nel senso che è chiaro che finché non parte il piano industriale le domande di ammissione rimangono lì, ma ci interessa che oggi più persone possibili diano questa disponibilità anche appunto come forma di pressione di ripartenza del piano industriale. Il piano di azionariato popolare per l'ex GKN, la campagna 100 per 10.000, un saluto e un ringraziamento a Dario Salvetti del collettivo di fabbrica GKN. A presto! Grazie a voi per il lavoro, la solidarietà e l'interesse. È il momento dell'agenda per quanto riguarda gli appuntamenti settimanali di teatro e di eventi culturali più in generale. Con Simone Nebbia di Teatro e Critica, ciao Simone. Ciao a tutti, buon pomeriggio. E allora andiamo un po' a vedere cosa ci offre questa settimana, che conferma le grandi avventure che Teatro Mondiale porta nella capitale questa settimana. Insomma, dopo aver visto una regia di Peter Brook la scorsa settimana, a Can Can questa settimana verrà qualcun altro, insomma, che ha particolare attenzione in giro per l'Europa, ma ne parleremo più tardi. In coda, e andiamo con ordine, e l'ordine per noi è sempre ormai andare ad aprire con l'inizio di stagione del Teatro Tor Bella Monaca, con un inizio di stagione legato un po' al classico, con un paio di spettacoli che saranno in scena dal giovedì 5 ottobre fino a sabato 7, ed è questa Cassandra con la regia di Laura Angiulli, che per chi non la conoscesse è una regista napoletana, direttrice del Teatro Stabile di Innovazione Galleria Toledo, con dei contributi al testo di Enzo Moscato. Variazioni sul mito numero 2, Cassandra, la più bella tra le figlie di Priamo, amata da Apollo, e siccome non ha corrisposto l'amore del dio, è dotata di una inascoltata capacità profetica, come tutti sappiamo. Insomma, Cassandra è un po' un personaggio ormai simbolico della profezia nefasta. Quindi questo spettacolo andremo a vedere, insomma, le voci di Cassandra con due interpreti come Alessandra Delia e Caterina Spadaro sul palco del Tor Bella Monaca, quindi 5-7 ottobre, mentre invece 6-8 ottobre sempre siamo in una dimensione classica, perché andremo a vedere il lavoro firmato alla regia di Alessandro Machia, che non una sola volta ha diretto testi classici, in questo caso Ifigenia in Aulide, il testo di Euripide nella versione italiana di Fabrizio Sinisi. È l'ultima delle tragedie di Euripide, un periodo di crisi della polis, poco prima della disfatta di Atene contro Sparta. Insomma, è una tragedia in cui si mette in scena un sacrificio e una morte che poi si riveleranno soltanto apparenti. Insomma, quindi qui il tragico sembra a un certo punto sgretolarsi rispetto poi a quella che sarà l'epoca moderna. Quindi 6-8 ottobre per questo Ifigenia in Aulide al Teatro Tor Bella Monaca. E ora poi andiamo a vedere, questa è una settimana importante per chi è appassionato di storia, anche di storia delle catastrofi contemporanee in qualche modo, perché tra pochi giorni sarà l'anniversario del crollo della tragedia del Vajont, il 9 ottobre del 63, saranno quindi 60 anni precisamente, e per l'occasione intanto so che ci sarà la riproposizione del vecchio spettacolo di Marco Paolini, appunto dedicato al Vajont, con cui Marco Paolini un po' è salito agli onori delle cronache, tempi ormai antichi, credo siano 30 anni di questo spettacolo, ma per l'occasione ci sarà anche una anteprima di uno spettacolo firmato da Andrea Otis, il Vaillant di tutti, Riflessi di speranza, che vabbè, andrà in scena proprio il 7 ottobre sulla diga del Vaillant, questo ci interessa di meno. Però siccome poi ha una tournée che interessa anche le nostre zone, direi che sicuramente ne parleremo poi più avanti, sarà a novembre a Roma. Intanto, in occasione di questo momento particolare d'anniversario, mi faceva piacere ricordarlo. Questi giorni sono anche quelli del primo Festival Internazionale di Teatro Rom in Italia, Roma Heroes, all'Auditorium di Via Santa Croce in Gerusalemme a Roma, fino all'8 ottobre, tutto il meglio della complessità, della ricchezza della cultura Rom europea. Ci saranno le creazioni di compagnie straniere, appunto Rom Independent Theatre Hungary, della compagnia romena Gublipen, e ci sarà anche Moni Ovadia, che insomma si fa carico di alcuni dilemmi, insomma di culture un po' più lontane dalla nostra, ed è questo avverrà alla Rampa Prenestina, anche oltre all'auditorium di cui abbiamo fatto citazione. Il 5 ottobre, giovedì, proprio Moni Ovadia sarà un concerto all'auditorium con la sua orchestra Taraf de Metropolitana Musica Nomade, e poi il collettivo artistico romeno Gublipen, credo di averlo pronunciato male, il 7 ottobre presenterà questa nuova produzione Viral on TikTok, un viaggio di due ragazze adolescenti che cercano il successo postando i loro video sui social network. La compagnia teatrale Rampa Prenestina invece proporrà intanto il 4 ottobre, nella lettura del festival, un primo spettacolo Aspettando un po', liberamente ispirato al capolavoro al Godot di Samuel Beckett. Il 7 ottobre invece presenterà questo Romnia, ultima produzione, una pièce caratterizzata da un focus sulla autodeterminazione identitaria della donna rom all'interno della società e della comunità. Questo è molto interessante. Il 7 ottobre uno sguardo sarebbe il caso di darlo, mentre invece uno show di stand-up comedy e conferenza antropologica, diciamo una sorta di via di mezzo, è quello che vedremo con Rashid Nikolic il 6 ottobre, con Gypsy Marionettist Rom versus Everybody. Questo è quello che andremo a vedere il 6 di ottobre, quindi insomma, per chi volesse approfondire sul sito di rampaprenestina.it c'è il programma un po' più preciso e completo. Ancora questa settimana, per l'apertura del progetto Do It Festival, che insomma abbiamo sempre segnalato, mi fa piacere continuare a segnalare, per questo weekend, primo dei due weekend di spettacolo, 7 e 8 ottobre, andremo al teatro Igramul con due lavori. Precisamente la compagnia Echoes, con le coreografie di Giuliana Maglia, presenterà The Time is Out of Joint, il tempo è scaduto. Ricordo anche questa frase apparsa sul claim, sulla scalinata del Museo d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma qualche anno fa, mentre per quanto riguarda l'8 di ottobre andremo a vedere lo spettacolo premiato come miglior spettacolo di festival 2020, Made in Terraneo, di e con Andrea Di Palma, che racconta uno spinoso tema delle migrazioni e dei viaggi in mare, attualmente anche molto, molto vivo, anche perché ci troviamo insomma nel periodo in cui è nelle sale il film Io Capitano di Matteo Garrone, che sta facendo parlare molto. Quindi 7-8 ottobre, teatro Igramul per il Do It Festival. Continua Magliacci all'uscita, da Leon Cavallo e Pirandello fino all'8 ottobre al teatro Vascello. Andremo anche a vedere a Teatro Lo Spazio il nuovo lavoro di Veronique Olmi, Matilde, cronaca di uno scandalo, il suo testo, una regia di Daniele Palleri. È uno scontro amoroso senza esclusione di colpi, una sessione di sesso cattivo e allo stesso tempo dissetante. Un sentiero è Matilde, che poi devia all'improvviso spiazzando continuamente lo spettatore. I due protagonisti sono interpretati da Maximilian Nisi, Maria Letizia Gorga, e questo è quello che andiamo a vedere a Teatro Lo Spazio dal 5 all'8 ottobre. Poi andiamo al Teatro Basilica, andiamoci perché questa settimana si apre la stagione con 5-8 ottobre e il lavoro firmato alla drammaturgia di Maria Teresa Berardelli, la regia di Giacomo Vezzani. Ho bisogno di sentire qualcuno che mi dica che sto bene. Questo è il lavoro firmato appunto da Maria Teresa Berardelli, che vedremo scena in questi giorni al Teatro Basilica. Racconta la storia di quattro donne, quattro amiche che si incontrano a una cena dopo tanto tempo, si sono viste da un anno prima, e qualcosa durante quell'anno è accaduto nelle loro vite, qualcosa che le ha cambiate, trasformate e le ha anche allontanate inevitabilmente. Non sono più quelle di prima, fingono però di esserlo e cercano di aggirare il problema. Cosa accade però quando si spezza questo gioco, questa funzione? Questo è quello che andremo a vedere appunto in scena al Teatro Basilica 5-8 ottobre. Teatro Belli, andremo già da questa sera fino al 15 di ottobre, per due settimane in scena con La difficilissima storia della vita di Ciccio Speranza, regia di Ludovica Dauria e Alberto Fumagalli. È la storia appunto di un ragazzo di un paese, Ciccio Speranza, che contrariamente a quello che è il destino che gli è riservato dalla sua vita di paese, gli vorrebbe ballare, quindi affrancarsi da un certo modo di intendere, di vedere il futuro e diventare così quello che desidera veramente. Quindi Teatro Belli dal 3 al 15 di ottobre. Ancora scaviamo in questa settimana teatrale e per andare agli spettacoli, agli appuntamenti della settimana, quelli diciamo un po' più attesi della settimana, e sono quelli del Roma Europa Festival, perché sarà questa settimana l'occasione per vedere tre spettacoli di grandissimo spessore. Apre oggi e domani, questa sera e domani, 3 e 4 ottobre, il lavoro firmato da Miro Rau al Teatro Argentina, prima nazionale, spettacolo coprodotto, Anti Gent è la sua compagnia, coprodotto con Roma Europa Festival, Antigone in Amazzonia, un lavoro che chiaramente entra a contatto con la globalità della questione ambientale, cercando di mettere in luce gli stilemi un po' della tragedia classica, che appunto richiamano l'esempio di Antigone, ma trasferendo in Amazzonia il suo attivismo, in qualche modo il suo lavoro di protesta e di sottrazione al potere precostituito. Questo è quanto c'è da dire. 3 e 4 ottobre, Teatro Argentina, poi c'è soltanto da vedere, in realtà Mino Rau non va assolutamente perso. Poi, sempre stessa compagnia, una donna che è formata sulla scena internazionale proprio per l'incontro con Mino Rau, Il viaggio dalla Sierra Leone ai Paesi Bassi, raccontato da chi l'ha compiuto davvero, Princess Isatu Hatanbangura, che mercoledì 4 e giovedì 5 sarà in scena al Mattatoio, in prima nazionale, appunto per raccontare il suo viaggio, una lettera d'amore alla sua terra d'origine, un viaggio alla riscoperta delle radici dell'Africa occidentale. Questo andremo a vedere al Mattatoio, visto le immagini che in momento soltanto sono bellissime, quindi considero un'Europa da andare a vedere senza ombra di dubbio. Ultimo dei lavori che ricordiamo, a parte che continua il lavoro di Digital Life al Mattatoio con molti lavori che sono sull'arte digitale, che invito ad andare a vedere, e sempre succede Roma Europa Festival, troviamo tutto, mentre invece questo lavoro, Diana Even, è il lavoro firmato da Kat Balastur con Pleiad Vocal Group e sarà in scena al Teatro Argentina 7 e 8 di ottobre. Si tratta di danza, ma non solo, di teatro danza, insomma, che indaga la figura mitologica di Diana, spesso rappresentata con l'arco e indicata come madre della luna e degli infari. Questa coreografia della coreografa e danzatrice greca Kat Balastur sceglie questo spazio notturno e cerca di portare in scena questa rilettura